le presentazioni sono sempre troppo, rendono sempre poi troppo alta l'aspettativa da parte vostra, quindi mi mettono in imbarazzo, però credo fermare che credo che questa mattina possiamo scoprire e appropriarci di qualcosa che il Signore vuole mettere a nostra disposizione. Voi sappiamo che questo mese è dedicato ai gruppi familiari, a questo impegno che abbiamo come Chiesa per promuovere l'avanzamento del Regno di Dio. Io voglio iniziare ringraziando tutti coloro che sono coinvolti in quest'opera, in questo ministero, ognuno che fa parte di una cellula, ogni capocellula, ogni responsabile di capocellula, tutti voi fate qualcosa di prezioso e vedremo che è veramente qualcosa di straordinario. E io vorrei che vi faceste un applauso per questo, è possibile? Sì. Tutti quanti battete le mani, significa che tutti quanti apprezzate quest'opera. E non in ultima come importanza, ma in ultima perché è qualcosa di troppo prezioso per me, vorrei ringraziare mia moglie che è al mio fianco in questo, perché veramente io voglio confidarvi un segreto, lei è la parte migliore di me. Voi mi vedete, però se volete vedere la cosa migliore di me dovete andare da lei e parlare con lei, e lo dico veramente seriamente. Entriamo nel vivo di quello che vogliamo esaminare. Forse non ci siamo mai resi conto prima d'ora che la prima, più importante, radicale e straordinaria riforma della Chiesa del Nuovo Testamento è avvenuto nel contesto di una cellula familiare. Questo per me è stato una scoperta, proprio una scoperta, perché non l'avevo mai visto sotto questo profilo. La storia è scritta in Atti al capitolo 10. Fino a quel momento l'Evangelo, la salvezza, l'opera che Gesù aveva compiuto era qualcosa di circoscritto al popolo ebreo e era una piccolissima rappresentanza di quella che era la popolazione del mondo. Nel contesto di una cellula familiare è successo qualcosa di straordinario. Dio lo aveva promesso ai discepoli, aveva detto: mi sarete testimoni fino all'estremità della terra, battezzate tutti i popoli, facendo discepoli di tutti i popoli. Ma fino a quel momento era stata solo un'idea, un desiderio che si è realizzato concretamente, appieno, nel contesto di un gruppo familiare. E la storia è scritta nel capitolo 10 degli Atti. Racconta la storia di Cornelio, che era un ufficiale romano dell'esercito che in quel tempo occupava la Palestina. Quindi non era neanche tanto amico delle persone che stavano lì, ma una serie di eventi straordinari hanno fatto in modo che Pietro e Cornelio venissero in contatto. Dio ha dato una visione a Pietro, una visione spaventosa quasi, per diverse volte per convincerlo, e aveva mandato un angelo in sogno a Cornelio per dirgli quello che doveva fare. Insomma, queste due persone sono venute finalmente in contatto e quello che succede è questo, è scritto in Atti capitolo 10 il versetto 24, è scritto: l'indomani, perché evidentemente c'era un giorno di viaggio fra Cesarea e Ioppe dove era Pietro, l'indomani arrivarono a Cesarea e Cornelio li stava aspettando, gli aveva chiamato i suoi parenti e i suoi amici intimi, e mentre Pietro entrava, Cornelio, andandogli incontro, gli si gettò ai piedi per adorarlo. Ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anche io sono un uomo. E conversando con lui entrò e, trovato molte persone lì riunite, disse loro: voi sapete come non sia lecito a un giudeo avere relazioni con uno straniero o entrare in casa sua, ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato. Perciò, essendo stato chiamato, sono venuto senza fare obiezioni. Ora vi chiedo, qual è il motivo per cui mi avete mandato a chiamare? Pietro, quello che aveva fatto, era stato di essere obbediente, di prendersi il suo rischio. Era illegittimo quello che stava facendo. Secondo l'usanza e le regole giudee, lui non poteva entrare in casa di pagani. Erano viste come persone immonde, erano viste come persone non degne nemmeno di essere visitate. Ma Dio gli aveva parlato, Dio gli aveva dato un messaggio, gli aveva detto: guarda che non c'è niente di immondo alla mia presenza, è quello che io ti dico di fare, fallo. Lui si era preso i suoi rischi ed era andato lì e ha chiesto all'inizio i chiarimenti a Cornelio. Ha detto: che okay, tu mi hai mandato a chiamare, ma perché mi hai mandato a chiamare? E a sua volta Cornelio gli ha detto: guarda, pure io ho avuto un angelo che mi è venuto a visitare. Lui dice: un signore che mi è venuto a visitare mi ha detto di mandarti a chiamare, e così adesso siamo qui tutti riuniti. E questo è stato qualcosa di straordinario, che non era mai accaduto prima. E io spero che voi con me cogliate l'importanza di questo momento. Questo era nel cuore di Dio fin dall'inizio, fin dalla chiamata ad Abramo. Ad Abramo ha detto: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E in quel momento si è iniziato a realizzare questo desiderio che era nel cuore di Dio. E non vi sembra strano che Dio abbia scelto di realizzare questa riforma, perché di una cosa simile si tratta, di epoca di portata mondiale, in un gruppo familiare, in una casa privata, riunendo poche persone? Lo avrebbe potuto fare nel Tempio, era un luogo adatto, in una sinagoga. Lo avrebbe potuto fare quando Pietro ha predicato e si sono convertite 3.000 persone. Se si sono convertite 3.000, ce n'erano almeno 4.000. Quindi era una platea più consona per un evento così straordinario. Avrebbe potuto farlo in una riunione dei discepoli. In una riunione dei discepoli si mettevano assieme e avrebbe potuto fare qualcosa. No, ha scelto di farlo in un contesto così singolare. Evidentemente è qualcosa di prezioso per lui. Evidentemente è qualcosa che permette a Dio di muovere la sua mano e di guidare e di aprire la sua volontà. È qualcosa. Io sono rimasto veramente a bocca aperta quando ho visto questa nuova luce, e in questa nuova luce quello che era successo. Noi siamo qui per quel gruppo familiare. Noi siamo qui per quel gruppo familiare, perché in quel gruppo familiare persone si sono riunite, si sono accordate a capire quella che è la volontà di Dio e a cambiare il destino del mondo. E questo è qualcosa di straordinario, questo è qualcosa di incredibile. Ebbene, i nostri gruppi familiari adorano lo stesso Dio. Nei nostri gruppi familiari Dio vuole fare esattamente la stessa cosa. Ed è scritto che mentre Pietro parlava e annunziava quello che era l'Evangelo della grazia, e cioè che Gesù è morto ed è risorto per il perdono dei peccati, per dare la salvezza e per dare il dono della vita eterna a chiunque lo riconosce come Signore e Salvatore della sua vita, Dio ha mosso la sua mano. Ed è scritto in Atti 10:44: mentre Pietro parlava, lo Spirito Santo scese su tutti, quelli che ascoltavano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Erano andati lì, avevano accompagnato Pietro ma non erano ancora convinti che quella fosse la cosa migliore da fare. Quando Dio li ha battezzati con lo Spirito Santo, dimostrando e dando conferma che quella era la sua volontà, quello era il piano che lui aveva e quello era quello che lui voleva fare, si sono arresi all'evidenza. E infatti Pietro ha aggiunto: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Questa è stata una svolta di portata mondiale. Questo è stato quello che ha realizzato il desiderio che era nel cuore di Dio. Questo è quello che ha dato un valore mondiale al sacrificio di Gesù sulla croce. E tutto questo è successo nel contesto di un gruppo familiare, in una riunione privata, in una casa. È straordinario, è qualcosa di incredibile. Il tuo gruppo familiare, o quello a cui deciderai, spero, di far parte alla fine di questo incontro, adora lo stesso Dio, prega lo stesso Dio, incontra lo stesso Dio. Nel tuo gruppo familiare c'è la presenza dello stesso Spirito Santo. Nel tuo gruppo familiare intenzionalmente viene messo Gesù Cristo al centro per permettergli di agire e di operare nelle nostre vite. E come quel gruppo familiare ha cambiato la storia della Chiesa e del mondo, perché Dio non può fare la stessa cosa con il tuo? Perché Dio non può fare la stessa cosa quando noi siamo riuniti come gruppi familiari? Quando siamo lì assieme alla sua presenza? La differenza sta nella fede che noi ci mettiamo. Pietro è andato lì sapendo che le cose dovevano cambiare e potevano cambiare. Cornelio era lì e aveva riunito la sua famiglia e i suoi amici sapendo che Dio aveva qualcosa di più e di più grande per la sua vita. E questo ha fatto la differenza, ha aperto la porta alla manifestazione della potenza di Dio. Nonostante questa dimostrazione così strabiliante, almeno per me, noi possiamo ancora chiederci: ma perché fare i gruppi familiari? Perché riunirsi un'altra volta in settimana per leggere la parola di Dio, per pregare assieme, per incoraggiarsi l'un l'altro? Perché farlo? Ci sono almeno tre ragioni fondamentali che io voglio condividere con voi. Perché i gruppi familiari ci aiutano ad essere chiesa e a vivere l'essere chiesa ogni giorno. E quando noi viviamo l'essere chiesa, ci fa stare bene. E non fa stare bene soltanto noi, fa stare bene anche la chiesa. L'apostolo Paolo ha parlato della vita della chiesa, del corpo di Cristo, usando queste parole in Efesini al capitolo 4 al versetto 16. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto, ascoltate bene, fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura in cui ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Qui è molto chiaro che noi siamo un corpo come chiesa, ma che questa chiesa è formata da ogni singola parte, che sei tu, che sono io, e ogni singola parte è importante per il beneficio e per il benessere del corpo della Chiesa. Non mi è venuto un esempio migliore. Però che cosa succederebbe se noi una volta alla settimana mangiassimo o dormissimo o facessimo una nostra attività fisica solo una volta alla settimana? Ho scritto anche parlassimo, però parlare è una cosa che una volta a settimana può andare pure. Che cosa succede se tu le attività del tuo corpo le fai una volta sola alla settimana? Adesso è esagerato, però noi possiamo dirlo in maniera forse più accessibile. Che cosa succede se il nostro corpo è pigro e se la nostra vita è sedentaria? Ebbene, succede questo: una ricerca anche superficiale ci farà scoprire questo. Me lo so scritto perché se no non me lo ricordavo bene. Una ricerca anche superficiale ci porterà a scoprire che la vita sedentaria espone a un rischio maggiore di morte prematura, rendendo il fisico più vulnerabile a una serie di patologie croniche degenerative, dalle malattie cardiache al diabete. Queste non sono parole mie, ovviamente, è qualcosa di accertato scientificamente. Se noi abbiamo una vita sedentaria, moriamo prima. Detto che ci piaccia o meno, possiamo mangiare bene, possiamo dormire bene, possiamo avere ogni comodità, ma se non ci muoviamo, moriamo prima. Ora, non ho trovato nessuna ragione perché questo non sia vero anche spiritualmente, perché questo non sia vero anche per il corpo di Cristo. Io credo che se il Signore ha fatto questo esempio, volendo darci l'immagine del nostro corpo e associandolo a quello della sua Chiesa, ci sia qualche forma di relazione. E se il nostro corpo ha bisogno di muoversi e di vivere e di avere delle attività quotidianamente, significa semplicemente che anche la Chiesa vive e ha bisogno di essere vissuta quotidianamente. Ecco perché gli incontri nei gruppi familiari. Il secondo aspetto è perché fare i gruppi familiari ti permette di portare a casa la Chiesa. Noi portiamo la casa in Chiesa o portiamo la Chiesa in casa? E li vedremo tutti e due questi punti. Questo è portare la casa in Chiesa. Voglio leggere con voi Giovanni 13:35. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Partecipare al gruppo familiare ti permette di manifestare l'amore di Dio. Ringraziamo Saverio per quello che ci ha fatto, ci ha mandato l'uno all'altro per incoraggiarci, ci ha mandato l'uno all'altro per pregare, ma questo è qualcosa di ufficiale, ecco. Non è veramente, almeno non credo che ognuno l'ha vissuto in maniera completamente libera, e forse domenica prossima non lo faremo più o faremo qualcosa di diverso, ma abbiamo bisogno noi di dimostrare l'amore reciproco, anche se non lo vogliamo, perché da questo conosceranno che siamo discepoli di Gesù. Queste sono le parole di Gesù. Da questo conosceranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Ora, l'incontro del gruppo familiare dovrebbe durare più o meno un'ora, nel quale ci sono diverse attività: pregare, leggere la Bibbia, commentare quello che è stato il messaggio della domenica, trovare delle applicazioni pratiche per migliorare la propria relazione con Dio, la propria relazione con gli altri. Ma questo gruppo familiare, questo incontro, c'ha un prima e un dopo. E forse questi sono i momenti migliori nei quali mostrare l'amore reciproco. Forse dando un benvenuto a qualcuno, o forse spendendo due parole dopo il gruppo. Ma sono questi momenti, al di fuori dell'ufficialità, che ci permettono, come è scritto in Romani al capitolo 5, di manifestare l'amore di Dio che ha sparso attraverso lo Spirito Santo nella nostra vita. Il gruppo familiare ti permette di fare questo. Il gruppo e se ti permette di fare questo, ti permette di raggiungere altre persone e di testimoniare che veramente Dio è vivo ed è qualcosa che ha un significato e una presenza in mezzo a noi. Portare la casa in chiesa. Perché sapete, non sarà molto semplice invitare parenti e amici qui. Ma a casa li possiamo invitare e forse non faremo neanche un incontro di cellula carismatico, fatemi dire così, faremo semplicemente una cena assieme o guarderemo un film assieme, ma avere la possibilità di dimostrare l'amore gli uni verso gli altri parlerà ai cuori delle persone e ci permetterà di dare gloria a Dio, perché questo dà gloria a Dio. Il terzo punto, portare la casa in chiesa. No, portare la chiesa in casa. Io non immaginavo, lo sospettavo che poteva succedere una cosa del genere, però portare la chiesa in casa. Prima abbiamo visto come portare la casa in chiesa, adesso vediamo come portare la chiesa in casa. Il gruppo familiare ci permette di fare questo. Abbiamo letto nel capitolo 10, il versetto 44, mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano. Ed è questo quello che ha convinto per prima i discepoli della bontà di quello che stavano facendo. Fino a quel momento le parole di Pietro toccavano e non toccavano, ma la dimostrazione della potenza di Dio, della manifestazione dello Spirito Santo ha fatto la differenza. Quello che fa la differenza nel tuo gruppo familiare, nel mio gruppo familiare, ringrazio Savere e Enza che sono i nostri capigruppo, è la presenza e la manifestazione dello Spirito Santo. Perché quando lo Spirito Santo si manifesta, quando lo Spirito Santo si muove, quando la potenza di Dio viene dimostrata, le nostre parole diventano superflue. Ora Dio ci permette anche qualche volta di parlare, ma quello che convince i cuori della persona è la manifestazione della potenza di Dio. E Gesù stesso ha detto in Matteo 18:20, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E questo ci offre proprio la possibilità di mettere in azione e di vedere quella che è la potenza di Dio. Lasciatemelo dire così, la cosa più importante che noi possiamo fare nel nostro gruppo familiare è pregare. Perché la preghiera muove la mano di Dio e la mano di Dio cambia le cose e muove e cambia i cuori delle persone. Come fino a quel momento i discepoli avevano ancora delle riserve, le persone che avevano accompagnato Pietro si sono meravigliate quando lo Spirito Santo si è manifestato. Hanno detto, è davvero fatta loro. Così hanno detto. Fino a quel momento non erano coscienti ancora di quello che stava succedendo. Quando Dio ha manifestato la sua gloria attraverso il battesimo dello Spirito Santo per quei pagani, hanno detto, ok, questa è la via, è la volontà di Dio. Quando nella tua cellula, quando nella mia cellula si manifesterà la potenza, la gloria e la grazia di Dio attraverso la manifestazione dello Spirito Santo e attraverso la parola di Dio, non avremo bisogno di altro, ma potremo soltanto dare gloria a Dio e ringraziarlo per quella che era l'opera sua, per quella che è l'opera sua intorno a noi. La sua grazia, la sua parola, la sua potenza sono quello che fanno la differenza in ogni incontro, anche in questo, come in quello dei gruppi familiari. Però io a questo punto vorrei chiamare Rosalia e Nicola, che sono due capigruppo, a testimoniare, a dirci quello che loro stanno vivendo o hanno vissuto con i gruppi familiari. Incoraggiato in altre poche Nicola, che è timido. il microfono? Credo di sì. Allora, comunque è meglio trovarsi da quella parte che da questa, tranquillo. Allora, io vorrei dire questo. Quando Stefano mi chiese se volevo essere responsabile di un gruppo familiare, io non ho detto subito sì. Pensavo di non avere le caratteristiche, insomma, di non avere le capacità. Quindi ho riflettuto a lungo. Poi, quando ho riflettuto a lungo, mi sono convinto che non le avevo. In realtà non le avevo le caratteristiche. Però ho pensato, ma quando mi capita di essere responsabile di un qualcosa così importante, sapendo di non avere le capacità? E allora ho accettato la sfida. Però una cosa potevo sicuramente fare, e non era difficile, aprire la mia casa, insomma, e far sì che, come ha detto Stefano, che la mia casa diventasse una chiesa. Insomma, noi sappiamo benissimo che nelle case si fanno tante riunioni della Tupperware, e dai regali, che ti devo dire, non oggetti di plastica. Fai una riunione della Stenum e hai un lucidante. Fai una riunione nel nome di Gesù, almeno è una benedizione, insomma. Quindi la mia è una esortazione, perché poi sappiamo pure che ci sono delle persone che ritengono la casa quasi fosse un museo. Magari ci sono dei componenti che nemmeno sanno di avere determinati mobili perché non hanno aperto la porta mai. Porta aperta, insomma, il contrario. Allora, questa è la cosa bella. Davvero vorrei esortare questo. È bellissimo aprire la propria casa ospitando delle persone e parlare di Gesù. Ed è una cosa che io non pensavo di poter fare, e lo faccio davvero con tutto il cuore. Quindi, insomma, potrei dire tantissime cose, ma ho paura di dilungarmi troppo. Io a quello che ha detto Nicola non ho nient'altro da aggiungere, perché a me piace ospitare. È una cosa che ho sempre vissuto da piccola, avere gente, quindi sono gioiosa di ricevere. Però la cosa che volevo condividere con voi era proprio perché nella parola di Dio c'è scritto: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorano assieme nell'unità. È come l'olio prezioso sparso sul capo, che scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti, e come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha comandato la benedizione, la vita in eterno. E io volevo proprio dire che ho visto la benedizione di Dio proprio nella mia casa, quando ho incominciato a fare questo, perché ho capito che dovevo essere un modello per le persone che ospitavo, e quindi mi sono messa in discussione, ho voluto sempre di più sperimentare la presenza di Dio nella nostra vita, nella nostra famiglia, per essere un esempio come famiglia per le altre. E Dio nella sua fedeltà ha fatto di più di quello che io ho cercato. Quindi ha lavorato in noi come famiglia, portandoci a un livello superiore, dove possiamo sperimentare chi è Dio e che cosa ha fatto Dio. Quindi, e io spingo tutti a voler stare in un gruppo famiglia, perché si cresce insieme, si è modello l'uno per l'altro, si è incoraggiamento e si è di sprone. Quando poi si vivono anche delle difficoltà, pregando insieme abbiamo avuto delle vittorie nel gruppo famiglia, e questo è spettacolare. Quindi io volevo condividere solo questo. Grazie Nicola, grazie, grazie Rosalia. Per concludere, cioè non è che ho finito, per concludere, Dio ama i gruppi familiari e li usa per cambiare la storia. Ha usato quel gruppo familiare per cambiare la storia della Chiesa e la storia del mondo. Può usare il tuo o quello a cui tu partecipi per cambiare la storia della tua famiglia o del condominio o dei tuoi amici o della tua città. Dio può fare quello che vuole. L'importante è che noi, come diceva Nicola, apriamo le porte. Noi possiamo vivere attraverso i gruppi familiari l'essere in chiesa ogni giorno, portare la casa in chiesa, portare la Chiesa in casa, che sembra un gioco di parole, ma è qualcosa di molto vero. Io vorrei concludere facendo alcune considerazioni su Cornelio, il capogruppo di Cesarea. Era un uomo di cui, cioè, in un versetto viene descritto: quest'uomo era pio e timorato di Dio, il versetto 2 del capitolo 10. Con tutta la sua famiglia faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio assiduamente. Le persone che aveva mandato da Pietro hanno aggiunto, dicendo, parlando con Pietro, potete andarlo a leggere, hanno aggiunto: è un uomo che ha buona testimonianza, che ama il nostro popolo. Pio, per definizione, non è soltanto una persona devota e religiosa, ma è una persona che nutre e dimostra sentimenti di compassione e carità verso il prossimo. E Dio ci chiama ad avere compassione verso il prossimo. E la nostra compassione non è quella di dire peccato. La nostra compassione è quella di annunciare l'Evangelo della salvezza, affinché quelle persone possano essere raggiunte e avere un destino di vita diverso. Cornelio non aveva tanta esperienza spirituale, non era neanche convinto di essere salvato, era molto incline all'idolatria. Quando è arrivato Pietro, si è gettato ai suoi piedi per adorarlo. Pietro ha dovuto alzarlo da terra. Non era molto preparato, però aveva un paio di caratteristiche importanti. Uno, faceva quello che gli veniva detto. L'angelo gli ha detto: manda a chiamare Pietro, che quello viene. Forse lui aveva già provato ad contattare i discepoli o ad avere delle relazioni che gli avrebbero aperto e dato più conoscenza a livello spirituale, ed era stato mandato via, rigettato perché pagano. Abbiamo sentito che Pietro diceva: no, io non posso neanche venire a casa tua. Lui non è stato lì a discutere, ha obbedito, ha fatto quello che gli veniva detto, ha invitato le altre persone perché era generoso, perché voleva aprire la sua casa e il suo cuore agli altri. Non aveva tanta preparazione spirituale, anzi forse non ne aveva per niente, però aveva una buona testimonianza. Noi certamente, ognuno di noi qui è più preparato di Cornelio, ognuno di noi qui è più esperto di Cornelio. Siamo sicuri che Dio non ci ha chiesto di fare niente, non ci ha chiesto nemmeno di far parte di un gruppo, o non ci ha chiesto di guidare un gruppo? Siamo proprio sicuri di questo? O è che ci sentiamo comodi? O è che siamo un po' pigri? O è che non vogliamo prenderci la responsabilità? Qualche altro se l'è presa. Ed è per questo che noi siamo qui. E molti in mezzo a noi potrebbero testimoniare che attraverso l'attività del gruppo familiare la loro vita e la loro relazione con Dio è cambiata. Perché non pensare questa mattina di essere tu protagonista di questa storia? Il Signore ha una storia per la tua vita, una storia da scrivere. In Efesini, al capitolo 3, al versetto 10, è scritto: voi siete stati salvati per grazia e siete opera sua, per fare le buone opere che Egli ha precedentemente preparato per voi. Ed è scritto anche sulla tua Bibbia questo versetto. Allora chiediti, ho io a che fare qualcosa con questo? Posso io dare il mio contributo? Posso semplicemente aprire casa mia, mettere delle sedie attorno a un tavolo per fare in modo che il regno di Dio avanzi? Dio ama i gruppi familiari e Dio vuole operare attraverso i gruppi familiari per la sua gloria e l'avanzamento del suo regno. E noi come Chiesa abbiamo il privilegio di avere questa possibilità, di avere questa opportunità e di aver ricevuto questa visione. È qualcosa di incredibile. E Dio lo ama E Dio è pronto a muoversi attraverso questa semplice partecipazione, questo semplice esserci. Io vorrei pregare adesso per ognuno di noi e fare in modo che noi veramente possiamo chiedere al Signore di fare in modo che noi possiamo cogliere questa opportunità e possiamo aprire il nostro cuore e la nostra volontà a una sfida nuova. Vogliamo alzarci in piedi per piacere? Signore Gesù, io ti voglio ringraziare e ti voglio chiedere veramente che il tuo Spirito Santo possa parlare a ognuno di noi adesso e possa convincere i nostri cuori di quella che è la tua volontà per ciascuno. Signore, dove abbiamo avuto pigrizia, abbiamo avuto paura, abbiamo avuto timore, togli ogni impedimento e permetti a ognuno, Signore, di realizzare il piano glorioso per la sua vita, per la tua gloria. Grazie Gesù. Amen.